Punto. Punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Chiedo anche al professor De Aglio, qual è la sua prima impressione del compromesso raggiunto ieri e qualche cosa che dà una risposta strutturalmente adeguata per risorse e per modalità di intervento sui mercati al momento primari degli emittenti e poi su quelli secondari rispetto ai problemi che abbiamo visto aprirsi a forbice del premio a rischio da 20 mesi a questa parte, oppure secondo lei il giudizio di chi dice bah, questo servirà per le prime settimane ma non risolve i problemi di fondo perché non ci sono eurobond, non c'è un eurotasse, cioè non c'è una fiscalità e un debito comune, quindi il passo non è ancora compiuto, il premio a rischio resta diversificato e quindi la speculazione riprenderà. Lei che pensa, professore? Temo di essere di questa seconda idea, cioè di concordare abbastanza con il corrispondente del New York Times che veniva citato prima. Hanno messo una pezza sulla ferita e sperano che la ferita guarisca da sola. Non hanno, diciamo così, messo in atto nessun meccanismo che possa prevenire altre crisi del futuro. Mario De Aglio risponde ad Oscar Giannino al termine di una settimana segnata dall'attesa del vertice europeo sulla crisi del debito. Un saluto a tutti da Gigi Donelli, benvenuti al nostro appuntamento del sabato sulla settimana ascoltata attraverso Radio 24. Una settimana che, nonostante l'estate avanzata, vede sul tavolo tutti i grandi temi internazionali e nazionali. Parliamo dunque di Europa, di crisi greca, di iniziative comune per curare il cancro del pubblico indebitamento che espone gli stati e in definitiva il sistema stesso agli attacchi della speculazione. Parliamo anche di politica, con le decisioni prese in Parlamento mercoledì in materia di arresti di parlamentari dai parlamentari. E cerchiamo così di approfondire le ragioni delle scelte, le conseguenze che queste decisioni appunto avranno sulla tenuta del governo. Naturalmente parleremo anche di Murdoch in una settimana che ha visto una raffica di deposizioni e che annuncia nuove inchieste. E poi di Vukovar, la città della Slavonia croata che ha subito una delle pagine più drammatiche della recente storia europea e che ora vede un'ombra di giustizia nell'arresto consumato proprio questa settimana dell'ultimo grande criminale della guerra nella ex Jugoslavia. Punto e a capo. Qualcuno ieri giustamente in Parlamento ha commentato: si è consumato il congresso della Lega sulla pelle di un nostro deputato. Concordo pienamente con questa affermazione. L'altra questione è evidente che il colpo arriva non solo a un Parlamento che dà una risposta imbelle alla campagna mediatica forsennata contro una manovra finanziaria che non prevede alcun taglio dei costi della politica e quindi come nel 93 si è arreso alla prepotenza delle cure rinunciando al primato della politica, ma certamente il colpo è arrivato dritto al Presidente del Consiglio. Stefania Craxi a Radio 24. L'avete sentita? Qualcuno ieri in Parlamento ha detto che si è consumato il congresso della Lega su un nostro deputato ed io concordo pienamente. Questo appunto Stefania Craxi, ospite di 24 Mattina qui su Radio 24. Ma per ripercorrere quanto accaduto in questa settimana della politica, partiamo dalla cronaca. Elisabetta Fiorito ci raccoglie, ci riassume gli eventi del centro della settimana. Il voto segreto non salva Alfonso Papa alla Camera, ma Alberto Tedesco al Senato. Paradossi parlamentari, la maggioranza si spacca sul voto di Montecitorio sul deputato PDL coinvolto nello scandalo della loggia P4. 319 sì, 293 no, 26 voti di scarto. Così Papa nell'aula di Montecitorio. Io sono innocente ed estraneo nel merito a tutte le accuse che mi vengono rivolte. E Papa si dice fiero della fiducia riposta in lui dal premier Silvio Berlusconi, ma la Lega conferma l'indicazione del sì all'arresto. Roberto Maroni. Assolutamente sì, come avevamo dichiarato. Berlusconi lascia Montecitorio scuro in volto e si sfoga con i suoi. Per buttare giù me, avrebbe detto, sacrificano Papa. Ne parlerò in Consiglio dei Ministri con Umberto Bossi. E dall'opposizione il segretario PD Pierluigi Bersani commenta. Da molto tempo la maggioranza mostra di non esserci. Adesso il tentativo di usare in modo improprio il vincolo di maggioranza non ha funzionato. Evidentemente nella Lega c'è stata una riflessione. Ma il vero paradosso è il voto del Senato. Alberto Tedesco, ex PD, ora gruppo misto, chiede di votare sì ai suoi arresti domiciliari, ma viene salvato proprio dallo scrutinio segreto, con 151 no e 127 sì. Viene sfiorata la rissa a Palazzo Madama, nella sala Garibaldi, dove Domenico Gramazio, PDL, accusa Paolo Giarretta, PD, di avere franchi tiratori all'interno del partito, e si arriva quasi alle mani. Elisabetta Fiorito, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma. E noi ripartiamo da Bossi. Il senatore aveva assunto una posizione molto forte sull'ipotesi appunto di arresto di Papa, poi aveva cambiato decisamente la sua posizione, nel frattempo le cose siano un po' attorcigliate, diciamo. Allora, risentiamo Bossi a inizio settimana. La Lega vuole votare per la, diciamo, per il suo arresto, questo ve lo dico subito. In aula penso che la Lega voterà per l'arresto. Il via libera all'arresto di Papa è dunque arrivato, con tutte le conseguenze di cui parliamo tra un attimo. Dall'altra parte il senatore PD Tedesco è ospite di Giuseppe Cruciani proprio mercoledì, il giorno stesso del voto in Senato, che invece ha detto no al suo arresto. Non si può certamente dare la stura alla dietrologia. Dunque lei è certo, ci dice di essere certo che i 92 senatori del Partito Democratico erano tutti presenti in aula, hanno votato a favore dell'arresto. A favore così dell'arresto. Come io avevo chiesto che facessero. Io credo che la Lega non abbia votato come aveva detto che avrebbe votato. Secondo me la Lega ha detto di votare a favore dell'arresto e poi ha votato contro, proprio per creare gli equivoci di cui stiamo parlando in questo momento. Ah, sapendo già del risultato della Camera, dice lei. Qualcuno chiede le sue dimissioni? Non credo né alcun motivo per dovermi dimettere. Sentiamo adesso il commento dell'editorialista del Sole 24 Ore, Stefano Folli, sulla situazione che si è venuta a creare. La frattura fra il PDL e la Lega che si è consumata ieri alla Camera può essere una svolta politica nel centrodestra e nei rapporti di governo, oppure può essere una semplice tappa sulla via del declino in assenza di una leadership che Berlusconi non riesce più a garantire. Il caso Papa da un lato e la vicenda dei rifiuti a Napoli dall'altro, con i parlamentari del PDL che si ribellano al loro stesso governo, dimostrano che si è toccato la soglia di guardia. A questo punto o Berlusconi riesce a riprendere in mano la situazione, convincendo la Lega a rientrare nei ranghi, ma è possibile? Bossi sembra assente, incapace di incidere sulla linea del carroccio che è dettata da Maroni. Oppure, se Bossi non è più leader, la maggioranza dovrà porsi prima o poi il problema di chi guida e guiderà l'esecutivo. Ieri il Presidente del Consiglio ha detto: quello su Papa è stato un voto contro di me. Ha ragione, è il voto di una maggioranza spaventata dai movimenti di opinione anticasta, giustizialisti, e timorosa dell'avvenire. Il terreno perfetto per un cortocircuito. E vedremo oggi con il voto sulla Libia cosa intende fare la Lega. Si è davvero consumato il congresso della Lega in Parlamento. Ieri Alessandro Milan lo ha chiesto a Matteo Salvini, Lega, classe 1973. Io ho letto delle ricostruzioni fantasiose che danno guerre, Bossi, Maroni, colonnelli, generali, sergenti, caporalmaggiori. La linea è quella di Bossi, Maroni, Calderoli, Giorgetti, Zaia. In un momento in cui qualcuno vorrebbe vedere la Lega divisa, se ne inventano di tutti i colori. Io stesso mi sono visto in quella controparte, in quel gruppo. Penso che Bossi e Maroni se la stiano ridendo leggendo i giornali. Se la stanno ridendo. Perché, cioè, quindi anche in retroscena, dopo il voto dell'arresto dell'onorevole Papa, di un Berlusconi che dice la Lega non è più di Bossi, devo trattare con Maroni, sono tutte fantasie. Ma forse è per lavarsi la coscienza, ecco, se Berlusconi e il PDL selezionassero un po' meglio chi mandano in Parlamento, chi scelgono per fare il sindaco, il consigliere regionale o l'assessore regionale, ci sarebbe magari qualche indagine, qualche richiesta di arresto in meno e saremmo tutti più tranquilli e lavoreremmo tutti su altri problemi. Fossi in Berlusconi mi preoccuperei più di questo, di quello che ha in casa sua, piuttosto che inventarmi problemi altrove. Insomma, ma il rapporto Berlusconi-Lega che punto è? È nato e continua ad essere, e non so per quanto sarà, un rapporto di interesse. Punto e a capo. Ripartiamo dall'Eurozona e avete sentito all'inizio di questa trasmissione la citazione del professor De Aglio. Ricordate la scorsa settimana? Qui abbiamo parlato di coccodrilli sull'euro. Lo spunto era venuto dall'ascolto di Romano Prodi, che da ex presidente della Commissione europea, ex primo ministro, spiegava che la speculazione è guidata dalla debolezza, proprio come i coccodrilli che scelgono il più debole, il più accessibile degli animali al guado. Ecco, così gli speculatori attaccano come e dove possono, senza condividere poi considerazioni che invece riguardano l'economia, la politica, le conseguenze, gli interessi collettivi. Ma c'è un altro aspetto che è stato sollevato in questi giorni, l'ipotesi di un complotto per indebolire l'euro. Fabrizio Galimberti del Sole 24 Ore a Focus Economia risponde all'interrogativo: c'è davvero un complotto per indebolire la moneta comune? No, sostanzialmente mi sembrano delle teorie analoghe a quelle che dicono che John Kennedy fu ucciso dalla CIA o che le Torri Gemelle furono organizzate anche lì da qualche imperscrutabile agenzia per la sicurezza americana. Io penso che purtroppo la rete, così come è uno strumento stupendo per la diffusione dell'informazione, è anche uno strumento in cui la disinformazione o i complotti o le teorie anarcoidi rivoluzionarie prendono piede in giro per il mondo. Io non credo a questa plutocrazia che decide di muovere i capitali del mondo secondo loschi scopi. C'è un grano di verità, e il grano di verità è il fatto che il dollaro ha i suoi problemi, l'euro ha i suoi problemi, ma in fondo non è che l'euro oggi sia molto debole. A 1,40, ricordiamoci che l'euro era sceso a 1,25 contro dollaro un anno e mezzo fa, quando non c'era nessun problema particolare. Penso che queste oscillazioni delle valute hanno molte motivazioni. In questo momento il dollaro a 1,40 è relativamente forte, e quindi già questo smentisce il fatto che sia in opera un complotto per indebolire l'euro a sfavore del dollaro. Se uno guarda a lungo periodo, vede che il dollaro oggi è la valuta debole rispetto a quello che era il suo cambio effettivo reale negli ultimi 20 anni. E questo era dunque Fabrizio Galimberti dall'Europa, che sicuramente vive tempi complessi all'altra sponda dell'Atlantico. Infatti, se l'Europa in qualche modo trema, di sicuro gli Stati Uniti non se la ridono. Mario Platero ci racconta la settimana di Barack Obama alle prese con la crisi dell'indebitamento, stelle e strisce. We now have a bipartisan group of senators who agree with that balanced approach. And we've got the American people who agree with that balanced approach. Barack Obama, finalmente lo abbiamo visto soddisfatto, ottimista. Perché? Beh, perché la Gang of Six, la banda dei sei senatori, si sono messi d'accordo in forma bipartisan per cercare di sbloccare l'impasse al Congresso per tagliare il disavanzo pubblico americano ed evitare il famoso default il 2 agosto prossimo. I due leader sono il senatore Mark Warner, che è un democratico della Virginia, e il senatore Saxby Chambliss, che è un repubblicano della Georgia. Altri 4 colleghi li hanno seguiti. Obama ha dato il via libera. Lavoriamo su questo. Si tratterà adesso di convincere la leadership della Camera a seguire questo progetto, cosa non necessariamente facile, perché proprio ieri la Camera ha proposto e passato un altro suo piano completamente separato per tagliare 2.500 miliardi. Il braccio di ferro continua, ma la situazione si chiarisce un po'. Questo piano è più equilibrato, ha detto Barack Obama, perché prevede tagli per 3.700 miliardi, quindi un piano molto aggressivo, molto ambizioso, con grandi tagli nella spesa pubblica, nella spesa sociale, grandi sacrifici, ha detto il Presidente, per noi democratici, che però siamo pronti a fare la nostra parte, ma anche con buoni risparmi dal punto di vista fiscale, perché ci sarà una riorganizzazione della legge fiscale americana e quindi si potranno eliminare una serie di inefficienze nel sistema fiscale americano, nel codice fiscale americano, con l'obiettivo di recuperare una cifra fra gli 800 e i 1000 miliardi di dollari. Dunque un passo in avanti accompagnato da ottimi risultati trimestrali per la Apple Computer, che pensate ha fatto 7 miliardi di dollari in un solo trimestre. 7 miliardi di dollari che si aggiungono a una posizione di cassa di 80-85 miliardi di dollari. La Apple Computer è sicuramente una delle più ricche società americane. Anche la IBM era andata bene, anche Yahoo è andata bene, anche Google era andata molto bene, e quindi il locomotore americano ha dato qualche segnale di vitalità. Continuiamo il nostro percorso attraverso la settimana e ci occupiamo adesso degli eventi internazionali, su tutti decisamente il caso Murdoch. Un riepilogo da metà settimana ce lo porta Leonardo Maisano. Sulla graticola di Westminster, dove è stato passato e ripassato, David Cameron se l'è cavata piuttosto bene. Dopo la performance di Rupert Murdoch, quest'ultima scena parlamentare, Westminster, lo ricordiamo, chiude per la pausa estiva, potrebbe calare una momentanea pausa sul caso ormai ribattezzato Murdoch Gate. Gli interrogativi restano però tutti risolti, la trama di relazioni pericolose fra media, politica e polizia è del tutto intatta. Ci vorranno mesi per capire le responsabilità politiche, se ci sono, e quelle manageriali della società, che esistono certamente, anche se non è stato possibile capire fino a che livello di coinvolgimento. Non l'hanno chiarito né Rupert, né James Murdoch, né Rebecca Brooks, l'ex amministratore delegato del gruppo. È un brutto pasticcio per l'immagine della politica e dei media inglesi, capace di far traballare anche la storica immagine di Scotland Yard. L'esito è imprevedibile, la sensazione è che il gruppo Murdoch abbia una ferita molto profonda che sarà molto difficile rimarginare, mentre i rapporti fra media e politica a Londra sono destinati a cambiare sul serio, divaricando quell'intreccio che si è rivelato sorprendentemente stretto con i conservatori di Cameron, ma prima di loro anche con i laburisti di Tony Blair. Leonardo Maisano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. E per chi volesse approfondire questa vicenda, che è tutt'altro che congelata appunto nelle vicende della settimana, è con 30 minuti in cronaca. Questa sera ci occupiamo al caso Murdoch, sentiremo le voci, le deposizioni, cercheremo anche di capire dove va questo enorme scandalo che investe un vero e proprio tycoon dell'editoria. Punto e a capo. Boris Tadic, presidente della Serbia, ha mantenuto la promessa. Con Goran Hagic, i maggiori imputati di crimini di guerra nella ex Jugoslavia, sono in carcere oppure sono morti. Goran Hagic era l'ultimo grande latitante di un manifesto scritto nel sangue 20 anni fa. Con la cattura di Goran Hagic si chiude la tragica pagina delle guerre nell'ex Jugoslavia degli anni 90. Il presidente della Serbia, Boris Tadic, è stato il primo leader politico serbo realmente impegnato a catturare i latitanti eccellenti che per anni erano riusciti a evitare l'arresto contando su protezioni ad altissimo livello. E ora spera in un rapido processo di integrazione della Serbia nella UE. Il suo auspicio sarebbe confermato dal plauso dei vertici dell'Unione Europea, che da tempo condizionava l'avvio del processo di integrazione della Serbia alla cattura di tutti gli imputati di crimini di guerra e contro l'umanità. Ieri si è gioito anche nelle stanze del Tribunale dell'Aia, dove magistrati e semplici funzionari hanno segnato con una croce la foto dell'ultimo latitante sul manifesto dei ricercati, ormai ingiallito dal tempo. La parola wanted, in caratteri cubitali, campeggiava da poco meno di 20 anni su quel manifesto. Ma ci vorrà ancora qualche tempo per capire se la chiusura di questa pagina sarà sufficiente a schiudere alla Serbia le porte dell'Unione Europea senza che le vengano imposte nuove condizioni, in primo luogo quella del riconoscimento del Kosovo. E per sapere se al Tribunale internazionale per i crimini di guerra commessi nell'ex Jugoslavia, che rischia la chiusura nel 2012 se non sarà prolungato il suo mandato, sarà concesso il tempo necessario a terminare i processi. le risposte a questi quesiti non sono assolutamente scontate. Elena Ragusin, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ecco dunque, il nome di Hadžić si lega indelebilmente alla storia di Vukovar 20 anni fa. Proprio l'inizio di agosto di 20 anni fa era il 1991, quando l'esercito jugoslavo, ancora tale, interviene per sostenere le operazioni dei secessionisti serbi in territorio croato. E la Slavonia, la città principale, appunto Vukovar, una città danubiana, il più grande porto danubiano di quella parte, allora ancora per pochissimo, della Jugoslavia, allora multietnica, e della città così carica di storia. Quando l'esercito di Belgrado interviene, dice sostanzialmente di volere calmare le acque, di voler salvare le minoranze serbe in terra croata, ma in realtà consente, permette che esploda, che dilaghi il furore dei secessionisti ultranazionalisti ispirati alla grande Serbia di Slobodan Milošević e di Radovan Karadžić. Goran Hadžić allora è ancora un oscuro magazziniere di Vinkovci, un borgo agricolo a pochi passi, a 8 chilometri da Vukovar. Diventerà una delle figure centrali di questa pagina nera della storia europea. Punto e a capo. 3.5 minutes until touchdown. Suono per collezionisti. L'avete sentito? Questo doppio sparo è un vero e proprio suono per collezionisti. Infatti segna il passaggio a velocità subsonica dello shuttle Atlantis, ormai prossimo alla pista di Cape Canaveral. Quindi sta frenando, passa dalla velocità supersonica a quella subsonica. Paolo, ce lo fai risentire per cortesia bello forte? 3.5 minutes until touchdown. Eccolo dunque, questo è l'ultimo doppio sparo di un'era. Dopo 30 anni di attività, proprio giovedì mattina, Atlantis è tornato alla base e si chiude l'era dello shuttle. Se ne apre anche un'altra che è più complessa e che gli americani sperano non debba durare troppo a lungo. È l'era in cui gli americani per la prima volta dal volo di John Glenn sono a terra per raggiungere la stazione spaziale internazionale, che orbita a quasi 400 km d'altezza intorno al nostro pianeta, dovranno chiedere un passaggio costoso alla Russia, proprio agli storici rivali. Ma insomma, si vedrà quanto durerà questa specie di limbo che naturalmente fa soffrire molti americani. Having fired the imagination of a generation, a ship like no other, its place in history secured. The space shuttle pulls into port for the last time. Its voyage at an end. Punto e a capo. Il terremoto di Sendai, 11 marzo 2011, al largo della costa della regione di Tohoku, nel Giappone settentrionale, lo ricordate direi, alle 14:46 minuti locali, alla profondità di 32 chilometri. Il sisma, che ha avuto magnitudo 9.0, con epicentro in mare, con successivo tsunami, è stato il più potente sisma mai misurato in Giappone. Il quinto di sempre, le conseguenze sono state spaventose. Ora però dal Giappone arriva una buona notizia, ce la racconta Stefano Carrer. La ripresa dell'economia giapponese dopo il terremoto è iniziata, lo conferma il ritorno a sorpresa del surplus commerciale dopo 2 mesi di deficit. Il surplus mensile a giugno è ammontato a 70,7 miliardi di yen, in quanto le esportazioni, guidate dal recupero del settore automobilistico, sono aumentate del 5,4% rispetto a maggio, pur restando dell'1,6% inferiori al giugno 2010. Un'altra sorpresa riguarda i dati sull'interscambio con l'Italia. Secondo i dati doganali giapponesi, a giugno il nostro paese ha esportato in Giappone per un valore quasi doppio rispetto a quanto abbia importato. Stefano Carrer, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tokyo. Punto e a capo. Rispetto alla spesso indiscriminata agitazione che raccoglie ed esaspera comprensibili insofferenze, ma anche pericolosi umori antidemocratici, io auspico da tempo decisioni di alleggerimento e semplificazione dell'architettura istituzionale, oltre che tangibili correzioni sul piano del costume politico. Io auspico da tempo decisioni di alleggerimento e semplificazione dell'architettura istituzionale. Ecco, l'intervento del capo dello Stato nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale conclude anche una settimana in cui si è parlato molto di costi della politica. Classe politica naturalmente al centro più che mai, direi, delle critiche, con gli ammonimenti anche all'attenzione a non scivolare in forme di populismo pericolose. Dall'altra parte però c'è la cronaca. Questa settimana due casi riguardano Filippo Penati e Piergianni Prosperini. Allora cominciamo a sentire il servizio su Penati. Sono estraneo ai fatti, ma mi autosospendo per rispetto all'istituzione. Così Filippo Penati, da oggi ex vicepresidente del Consiglio regionale lombardo. Con una lettera al presidente della regione Formigoni, il dirigente PD, accusato di aver percepito tangenti quando era sindaco di Sesto sulla riqualificazione delle ex aree Falc, ha formalizzato la sua decisione. Dopo la notizia di ieri, il PD ha fatto quadrato attorno a lui. E tuttavia molti oggi si chiedevano perché il partito non avesse chiesto le dimissioni come per i membri dell'opposizione in situazioni analoghe. Il segretario regionale del PD Lombardo, Maurizio Martina. Abbiamo sempre avuto questo atteggiamento nei confronti di tutte le vicende giudiziarie che riguardavano il mondo della politica. Pieno rispetto nel lavoro dei magistrati, quindi la giustizia faccia il suo mestiere fino in fondo. I malumori all'interno del PD hanno comunque continuato a serpeggiare nel corso della giornata, come testimoniano i numerosi post sui forum e i messaggi su Facebook che invitavano Penati a dimettersi. Nel pomeriggio la scelta dell'autosospensione. Da Penati gesto di responsabilità, ha commentato il leghista Boni, mentre dal PD Lombardo auspicano che possa tornare a svolgere le sue funzioni a breve. Giacomo Segantini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'ex assessore regionale al turismo e allo sport, invece Piergianni Prosperini, è finito nuovamente agli arresti domiciliari. Le accuse sono corruzione e false fatturazioni, relazioni a tangenti ricevute per favorire un imprenditore in una gara d'appalto per la promozione di eventi in Valtellina. Sono qua, tranquillo, bello pacciarotto. Okay. Non sei stato arrestato. No. Il video in rete è diventato un cult. Era il 16 dicembre 2009 e Piergianni Prosperini negava in diretta TV l'arresto che stava avvenendo proprio in quel momento. Per quella vicenda legata a spot e tangenti, l'ex assessore regionale lombardo ha patteggiato una condanna a 3 anni e 5 mesi. Ora è di nuovo nei guai. È finito agli arresti domiciliari con le accuse di corruzione e false fatturazioni per presunte tangenti legate ad appalti per la costruzione di stand fieristici della Borsa Internazionale del Turismo. Prosperini ha dimostrato un'elevata capacità a delinquere, si legge nell'ordinanza firmata dal GIP di Milano Andrea Ghinetti, e ha continuato a commettere reati anche quando sapeva già di essere indagato. Per l'ex militante della Lega, poi passato ad Alleanza Nazionale, il GIP ha invece respinto la richiesta di arresto per il capitolo che riguarda un presunto traffico di armi in Eritrea, per cui vengono contestati reati fiscali. Insieme a Prosperini è finito agli arresti domiciliari anche un imprenditore valtellinese, mentre risultano indagati un dirigente e un funzionario dell'assessorato regionale al turismo, accusati rispettivamente di truffa aggravata e corruzione. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Punto e a capo. Ultimi minuti del nostro appuntamento del sabato con la settimana raccontata, ascoltata, parlata alla radio, naturalmente a Radio 24. Eccoci qua dunque, dopo aver affrontato alcuni temi importanti, avevo detto all'inizio, insomma, siamo in piena estate, eppure ci sono davvero tutti i grandi temi sul tavolo, prendiamo un po' di respiro. Cominciamo ricordando un momento della settimana con Nicoletta Carbone, che a Essere e Benessere parla di organizzazione dell'estate, lo fa con il cantante Paolo Belli. Faccio tutto, tutto fatto, faccio festa. Voglio essere un animale, respirare senza pudore. Paolo, ciao, benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti, ciao Nicoletta. No, abbiamo... hai sbagliato, io non sono il centrocampista nazionale, io sono la palla della nazionale cantante. Dai. Senti, noi siamo partiti con Faccio Festa, sigla del 94esimo Giro d'Italia, ma tu sei più un amante del calcio, vero? Guarda, ce l'hai nel sangue. Allora, dal punto di vista della passione, io sono più appassionato di ciclismo. Per me è lo sport più bello del mondo, però è proprio la classica passione da divano, sì. Nel senso che io ritengo di essere un grandissimo direttore sportivo, potrei benissimo, nella mia naturalmente follia, ritengo di essere uno che potrebbe tranquillamente fare il commissario, il direttore di una squadra di ciclismo, sì. Però ho sempre giocato a calcio fino a qualche tempo fa, ma da qualche anno a questa parte gioco solo a tennis, perché proprio io sto allo sport come Bob Marley stava al valzer. Sì, Paolo. Senti Paolo, però io oggi ti voglio dare un ruolo, un po' quello di mister, no? Per i nostri ascoltatori che in vacanza si allacceranno le scarpette per scendere in campo, quindi io vorrei che tu dessi una raccomandazione per gli scapoli, una per gli ammogliati o una che vada bene per tutte e due. Ma la cosa più importante naturalmente, ma lo sanno già tutti, che è prenotare il ristorante. Sì. La cosa più importante, perché poi alla fine sembra una battuta, ma invece è la verità, nel senso che noi maschietti adoriamo andare a fare la partita di calcetto con gli amici, per eccetera. Il dopo è il dopo, sì, perché c'è innanzitutto la giustificazione del fatto che se uno prende una pizza più abbondante e una birra media o anche due si sente sereno, perché dice tanto comunque ho fatto un'ora di calcetto, quindi ho smaltito tutto, cosa che non è vero, però è una giustificazione che ci si dà. E poi perché c'è lo sfottò, perché una delle cose che credo più belle degli uomini sia quella che riescono a prendersi in giro anche in maniera pesante, però poi finito la birra è finito la tutto pizza, finisce tutto, esatto. Allora, ristorante e preparatevi per lo sfottò e riscaldatevi prima, dai Paolo. Eh beh, il riscaldamento è chiaro che ci deve essere, che naturalmente io sono, te l'ho già detto anche un'altra volta, sono il meno indicato, perché io quando entro in campo poi vedo la palla e comincio a calciare, invece, e poi chiaramente ne subisce le conseguenze, invece dovremmo tutti, soprattutto dopo gli anta, bisognerebbe che facessimo sempre un po' di stretching, un po' di riscaldamento, eccetera. Quindi però, bisogna dire non fate come Paolo Belli. Esatto, cioè voi, esatto. Voi vedete Paolo Belli? Fate il contrario ed è perfetto. Cinema, per concludere, come sempre, doppio appuntamento: da una parte la campagna elettorale per il sindaco di Milano, la sfida Pisapia Letizia Moratti, che è diventata un film che verrà proiettato il 5 agosto al Festival Svizzero di Locarno. Si chiama Milano 55-1, cronaca di una settimana di passione, il titolo di un'opera collettiva proprio sul ballottaggio. Tra i 50 registi che l'hanno realizzato c'è Alina Marazzi, che ha riproposto parte del documentario girato nel 93 durante la sfida tra Marco Formentini e Nando Dalla Chiesa. La sentiamo al microfono di Paolo Panceri. Quello che credo verrà fuori è questo sentimento molto forte, secondo me, da parte della cittadinanza di sentire Milano, e credo che questo sia un po', non so, mi viene da dire la novità, nel senso che i milanesi bistrattano abbastanza la loro città e tendono a criticarla e non amarla e forse anche appunto a maltrattarla e adesso mi sembra che ci sia un po' un atteggiamento, mi sembra di registrare questo atteggiamento diverso, cioè di voler dire riprendiamoci il territorio da parte di tutte quelle persone che sono state un po' forse anche addormentate in questi anni e hanno subito, e sentendosi non so anche vittime, senza però agire. E infine, come sempre, la nostra Marta Cagnola ci porta davvero in giro per il mondo di celluloide, avremmo detto una volta, quindi del cinema realizzato, del cinema girato in queste settimane estive. La direzione è un set molto atteso, quello di Benvenuti al Nord. Dai subito l'altra, l'ultima. Vai Chantal. Giorni di set scommettendo in un nuovo record al botteghino. Dai, dai, era perfetta, l'ho rivista, quindi vedi tu se la vuoi fare. L'anno scorso fu il film apripista della stagione delle grandi commedie italiane, inatteso perché un remake, ma ora di Benvenuti al Sud arriva addirittura il sequel Benvenuti al Nord. Il regista Luca Miniero. Sì, il film è in effetti chiaramente un sequel, però racconta un più che altro auspica una collaborazione fra nord e sud, nella collaborazione fra due personaggi, che non è tanto il superamento dei pregiudizi come nell'altro, ma sempre in commedia, anche perché è un film forse più divertente dell'altro, racconta come se nord e sud stanno insieme e migliorano. Io penso che il remake è una sfida difficile, in effetti credo che l'originalità di un film sia proprio nel film stesso, non al fatto che è derivato da un romanzo o da un altro film. Anche per questo molti remake vanno male. Il film ha avuto una sua anima originale, quindi era come esportare in effetti un pezzo d'Italia, per questo che è stato molto molto visto in Spagna per esempio, ma è andato molto bene in Germania e anche in Francia, ha avuto dal Nouvel Observateur un'ottima critica. Protagonisti ancora Claudio Bisio e Alessandro Siani, che ha scoperto Milano. Non puoi dire freddo perché fa un caldo buono. Hai ragione, primo luogo comune di Milano. Devo dire c'è un popolo molto, ho visto milanesi molto affabili, molto carini. Molto milanesi quanti ne hai trovati? Nessuno. Forse sono quelli di Napoli che venivano vicino a me, può darsi. No, invece si sta sinceramente... Quanti napoletani hai trovato a Milano? Ma pariccio proprio, ma ristoranti, nelle pizzerie, che cammini, cioè napoletano. Finti giapponesi che parlano napoletano. A Milano. Ristoranti giapponesi che napoletana dentro, pizzerie dove stanno gli egizi. Cioè, ormai è una città veramente... Cosmopolita. Non so che significa, però è così. Più napoletana. Cosmopolitana. Cosmo-napoletana. Ma ci state preparando per un altro successo internazionale? No. Non ne parlo. No, questo no. No. Non uscirà neanche tutta Italia, pare, solo nelle isole. Abbiamo girato all'isola. All'isola, qui come a Milano. Sei trovato all'isola? Male. No, ma aspettavamo fu bagna, invece no. L'isola è un quartiere di Milano, perché non lo sapesse, pieno di cemento e cementificato. Io ho fatto pure un biglietto per l'aliscafo. E non gliela mi devono rimborsare. Buona? No. Bene. Va bene. Stop, ok. Eccoci qua, dunque, siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento. Se, come giustamente potrete aver notato, mancano pezzi di questo racconto settimanale, io vi ricordo, ne approfitto per ricordarvi, il nostro sito www.radio24.it, dove trovate l'intera raccolta dei contenuti, dei temi che abbiamo sviluppato durante la settimana. A me non resta che salutarvi e unire nel mio saluto Paolo Corleoni in regia questa settimana, augurarvi un ottimo fine settimana. Per Punto a Capo, l'appuntamento è come di consueto sabato a partire dalle 9:00.